sere himona gare kamwa benzenito ichi ashi jabun kabla utwa mwenze mastere hi portable kate hakate moja ya hawara na moja ya mtumshi mastere hi namshahara wa mwezi ito kenti plus nirenge mwezi tito lima nito nyera tu atapa yangu ito nyera mastere hi nyumba ilo na karumpia nito pishwa na lambwara de kazinchia Mastere hina mtumshe mzuri noteri Klimatizori na miziki ya ekeli Neka wawe unala hokari Neka uchi amara jivenchi Neka una potabu soni Neka una konti na banki Wanyi uvenza mastere hi Wasi uvenza mastere hi Wawe uvenza mastere hi Wasi uvenza mastere hi Mastere Mastere Mastere hi wanaho waenda nikoli Pulia mundu tele na wawe ubanga na chukoli Mastere hi wakati wa harusi Utolisi wa uju na fote ya bwana Mastere hi fumo vili baha Rini kagena tovi litre atembo bafuni Mastere hi nekabwe na dalai shushu Mana atoregea aja irenge uste Mastere hi prea bake kuba Liwa jirani wawe varusa kamiona hibira Mastere hi ere foya henda neveri Usta arabu emisyon fampi la teri Neka wawe unala hogari Neka uchi amara jivenchi Neka una portable soni Neka una konti na banki Wanyu venza mastere hi Wasi uvenza mastere hi Wawe uvenza mastere hi Wasi uvenza mastere hi Mastere Mastere Mastere Mastere Aya babo mastere hi Nikazi mila naidi mizi sena veli Aya babo mastere hi Nikazi mila naidi mizi sena veli Amara Givenchy Neka una portable Sony Neka una konti la banki Wanyi uvenza mastere hi Wasi uvenza mastere hi Wawe uvenza mastere hi Wasi uvenza mastere hi Mastere Mastere Mastere Mastere Mastere